vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 aprile, il sole in regione è sorto alle 6.18 e tramonterà alle 19.57. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno e buona Pasqua da Armando Mucchino e Rita Miccoli. Ha stentato a soppiantare il mais nelle campagne del Friuli, ma oggi è la regina incontrastata delle coltivazioni. Stiamo parlando della soia, che tante soddisfazioni sta riservando agli agricoltori. A seguire la storia di Angelo Floramo, che ci parla di quel microcosmo di animaletti che popolavano l'aia contadina. Nuovi controlli per i vini DOC e IGT nella rubrica delle normative, mentre in quella della frutticoltura focus su una pianta interessantissima ma da noi semi sconosciuta, l'aronia. Propoli, cera e veleno sono i tre elementi dell'alveare indagati nello spazio che dedichiamo alle api, mentre in quello degli amici alberi ancora una puntata dedicata alla potatura delle piante. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Per gli approfondimenti che Vita nei Campi sta dedicando all'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, oggi siamo nel settore dei cereali e parliamo di soia con il perito agrario Marco Signor dell'ERSA, una specie che è continuamente sulla bocca degli agricoltori. Come mai? Fondamentalmente perché la soia è una coltura valida per molti suoi aspetti, ma in questo momento è particolarmente interessante perché non ha bisogno di concimazioni azotate. Infatti, grazie ai batteri simbionti che si sviluppano a livello radicale, sintetizza l'azoto nella quantità di cui ha bisogno. Inoltre, interrando i residui, abbiamo un apporto di circa 40 unità di azoto per la coltura successiva. In questo momento, in cui i prezzi dei concimi sono quasi raddoppiati, molti agricoltori valutano la possibilità di ampliare le semine di soia riducendo quelle del mais. Qualche anno fa si era presentato il problema della cimice asiatica e la soia era andata sotto accusa. Sì, l'associazione soia cimice marmorata asiatica è stata un po' una forzatura legata all'esperienza comune dell'arrivo di questo insetto nelle case e nelle fasi in cui veniva trebbiata la soia. Ora la situazione si è notevolmente ridimensionata. La cimice asiatica e la più tradizionale cimice verde non sono scomparse, ma hanno trovato un loro equilibrio naturale e quindi non infastidiscono più come una volta, anche se rappresentano ancora un problema per la frutticoltura soprattutto. Dal punto di vista della redditività, conviene dunque soia? Con gli attuali prezzi di mercato, che sono superiori ai 600 euro a tonnellata, è più redditizia e a costi minori, legati soprattutto al fatto che non ci sono concimazioni azotate. E scusate se lo ribadisco, la soia non deve essere concimata con azoto. Il rizobio fa questo lavoro gratuitamente, in modo naturale e meglio di quanto possiamo fare noi con i nostri interventi chimici. Una curiosità, ma non per gli ascoltatori di Vita nei Campi che lo sanno, ERSA costituisce varietà di soia? Certo, si tratta di un lavoro iniziato alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, partito dalla volontà di creare nuove varietà di soia che fossero adatte all'alimentazione zootecnica. Il grande vantaggio è che sono varietà selezionate sul territorio, osservate e valutate nelle diverse aree agricole della nostra regione. È da dirsi inoltre che il Friuli è particolarmente vocato per questa coltura e gli agricoltori sono professionalmente esperti nella sua coltivazione. E che risultati avete ottenuto? Beh, attualmente sono in commercio ben 24 varietà costituite da ERSA, assegnate a diverse ditte sementiere che hanno sottoscritto i contratti di moltiplicazione e vendita del seme dopo regolare gara. Ovviamente tale assegnazione viene data alla ditta che fa la migliore offerta in termini economici. Dal punto di vista economico, poi, il valore delle royalties incassate da ERSA è cresciuto di anno in anno, passando dai 108.000 del 2014 ai 475.000 nel 2021. L'aia della casa contadina era un microcosmo abitato da tanti piccoli animali con le loro strategie di vita che si incrociavano con quelle degli uomini in una storia secolare che ci racconta oggi Angelo Floramo. Animali da cortile. Nella casa rurale non mancavano mai. A prendersene cura era un'arte che richiedeva passione e dedizione totale. Non un'occupazione da poco, ma consegnata al tempo di chi non doveva assumersi la fatica quotidiana del lavoro nei campi. La tavella si estendeva oltre le pertinenze della casa. Invece gli sbesteutis condividevano quegli spazi ibridi in cui l'umano si sovrapponeva al respiro della terra. Vi si mescolava quasi, cercando intersezioni che oggi, come un tempo, sono capaci di ingenerare meraviglia e stupore. Il pollaio. La sua costruzione diventava un progetto edilizio vero e proprio, in cui l'estro dell'architettura spontanea proiettava nella piccola cittadella delle galline quell'ordine sociale che vigeva anche altrove, nella casa degli umani, o tra le piazze e le vie del borgo rurale, in cui si consumava la vita sociale della comunità. Con le stesse regole, per di più sancite da una società profondamente patriarcale, convinta che regni la pace là dove canta il gallo e la gallina tace. Edificato in muratura e in legno, abbastanza distante dall'abitazione, ma non troppo, meglio se nelle pertinenze dell'orto, dove sorgeva anche il cesso esterno, che con il pollaio riforniva al letamaio di una riserva costante di concime per l'orto, appariva come uno spazio ordinato, secondo un principio funzionale, non certo improvvisato, ma al contrario sancito dalla tradizione e dall'esperienza. Il recinto proteggeva i pennuti dalle incursioni nemiche della volpe, o quelle anche più minacciose della martora e della faina. Oltrepassata la soglia, l'odore inconfondibile ne segnava i confini, tanto che era sapienza comune considerare l'età di una gallina dalla quantità di sbitz calpestati nel corso del suo andare. Le pietre dell'acciottolato pavimentavano una piccola piazzola con tanto di vasca per l'acqua e mangiatoia in cui riversare il pastone, improntato al riciclo perfetto di quanto non si poteva più consumare in tavola. Scalette a pioli portavano alla cova, un luogo riparato dove le galline si ritiravano a dormire una volta scese le tenebre. E quello era il tempo delle pantegane, che fuoriuscivano dai loro cunicoli scavati sotto le pietre. Al mattino, annunciato dal gallo, era sempre stupefacente avventurarsi tra la paglia ancora calda e trovare l'epifania delle uova, un piccolo miracolo che aveva sempre il sapore di una Pasqua, tanto che berne uno, così, a caldo, regalava quel senso di appartenenza al tutto che oggi forse abbiamo purtroppo dimenticato. Con un decreto del 3 marzo scorso, l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi ha modificato il piano dei controlli per i vini DOC e IGT. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Ricordo innanzitutto che in Italia la certificazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica non è più realizzata direttamente dall'ente pubblico, un tempo lo facevano le Camere di Commercio, ma è demandata a strutture private sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Nella nostra regione operano tre società diverse, Valori Italia, CVQ e Triveneta Certificazioni, e tutte indistintamente applicano protocolli definiti dal Ministero che vengono periodicamente aggiornati. Quali sono le novità introdotte con la recente revisione? Le principali novità riguardano i controlli in vigneto. Siccome i disciplinari di produzione attribuiscono grande importanza alla resa di uva per ettaro ai fini della qualità del vino, il Ministero chiede un maggiore impegno alla verifica di questo parametro attraverso controlli ispettivi in fase di maturazione, cioè dopo l'invaiatura dei grappoli, e anche in fase di raccolta. Qualora dopo l'applicazione di opportune tolleranze dovessero emergere valori di resa non compatibili con il disciplinare di produzione, allora verrebbero imposte azioni correttive fino al declassamento delle partite. Le novità riguardano solo i controlli in vigna? Ci sono novità anche per i vinificatori, in quanto il nuovo piano dei controlli prevede che il 30% delle verifiche venga effettuato in fase di introduzione delle uve in cantina. Oltretutto la procedura prevede che il 5% di queste si svolga senza alcun preavviso al produttore interessato. Oggetto dei controlli saranno la rintracciabilità dei carichi e delle pesate, la qualità delle uve, le operazioni enologiche e la coerenza dei quantitativi con i carichi risultanti nel registro telematico o dai documenti giustificativi in azienda. Reazioni da parte della filiera. Sicuramente le nuove procedure hanno l'obiettivo di elevare le garanzie per il consumatore e fin qui nulla da eccepire. Gli operatori però sono piuttosto preoccupati perché l'esecuzione di controlli all'ingresso delle uve in cantina, che normalmente è una fase molto concitata, può creare non pochi disagi a chi lavora, oltre che problemi di sicurezza. Quanto ai controlli nel vigneto, in fase di maturazione dei grappoli, si pone anche un problema di aumento dei costi, poiché è evidente che gli organismi di certificazione saranno costretti a reperire ed impiegare molti ispettori per riuscire a completare l'attività in un brevissimo intervallo di tempo, che a seconda delle annate potrebbe essere anche di pochi giorni. Oggi il professore Raffaele Testolin ci parla di una pianta da frutto semi sconosciuta da noi, al contrario delle vicine Carinzia e Slovenia, l'aronia, una lontana parente del melo. Ho visto l'aronia la prima volta in una collezione di melo a Dresda, in Germania, e l'ho rivista qualche anno dopo nel bellissimo e variopinto mercato contadino di Lubiana, dove ho acquistato i frutti e ho prodotto un po' di piante. La mia curiosità per questa pianta è legata alla passione che ho per le specie selvatiche di melo, di cui l'aronia è un lontano parente. L'aronia è un cespuglio, produce bacche nere che in realtà sono piccoli pomi dalle eccezionali proprietà antiossidanti. La crescita di questi cespugli è lenta, tanto è vero che una dozzina di piante regalate ad un'amica perché facesse una originale siepe in orto hanno fatto una fine miserevole, sostituite dalla più ingombrante e vistosa Fotinia. Eppure l'aronia è un cespuglio elegante, anche se poco vistoso, facile da coltivare, certamente capace di non sfigurare nei nostri giardini. Nelle vicine Slovenia e Carinzia si trova facilmente nei giardini ed è anche diffusa su piccole coltivazioni familiari. A Lucinicco, vicino a Gorizia, un'azienda la coltiva a scopo industriale e vende i prodotti trasformati. I frutti si vendono freschi, ovviamente, ma si vendono anche bacche essiccate, succhi e sciroppi, perfino polvere di frutti essiccati e macinati. A me i frutti ricchi di antiossidanti piacciono, ma penso che arricchire con prodotti fortificati una dieta varia e ben equilibrata che contempli frutta e verdura non sia necessario. Detto questo, saluto comunque con simpatia gli amici che frequentano farmacie ed erboristerie alla caccia degli elisir di lunga vita. Alla prossima! Propoli, cera e veleno sono altri prodotti dell'alveare su cui oggi si focalizza l'attenzione di Moreno Greati, che ci cura la rubrica dell'apicoltura e delle api. Altri prodotti dell'alveare, forse meno noti di quelli trattati in precedenza ma pur sempre importanti, sono la propoli, la cera e il veleno. La propoli viene utilizzata dalle api per costruire sbarramenti che limitano l'ingresso agli alveari, chiudere eventuali fessure e come vernice disinfettante all'interno degli alveari e nelle celle di allevamento della covata. La propoli viene raccolta sulle gemme delle piante ed è costituita da una miscela di sostanze resinose, gommose e balsamiche che viene ulteriormente arricchita dalle api con secrezione propria. La propoli è poco solubile in acqua, mentre si scioglie bene in alcol. La soluzione alcolica rappresenta la base per la preparazione delle tinture di propoli che vengono utilizzate, ma può essere impiegata anche sotto forma di pomate, unguenti, lozioni e paste. La propoli possiede numerose proprietà in campo medico-biologico e presenta attività antiossidanti, antibiotiche, antimicotiche, anestetizzanti, cicatrizzanti, immunostimolanti e vasoprotettive. La cera è una sostanza composta da una miscela di acidi grassi e alcoli ed è chimicamente molto stabile. Viene prodotta dalle ghiandole ceripere delle api operaie di età compresa tra i 10 e i 16 giorni sotto forma di goccioline che a contatto con l'aria si rapprendono in scaglie fra i segmenti dell'addome. Un tempo la cera serviva per l'illuminazione, per la scultura, per la scrittura, nella medicina e nelle pratiche religiose. Oggi in molti casi è stata soppiantata da altre sostanze più economiche, paraffina, plastica, cere vegetali. Attualmente il principale uso della cera è il riutilizzo da parte degli apicoltori per la fabbricazione dei fogli cerei da inserire nei telai mobili, ma viene impiegata anche in campo farmaceutico e cosmetico e come cera per i mobili. Il veleno viene emesso dall'ape quando punge sotto forma di goccioline e solidifica rapidamente all'aria. Grazie a queste sue caratteristiche può essere raccolto mediante dispositivi specifici. Nelle api la produzione del veleno inizia subito dopo la nascita e la quantità massima contenuta nelle ghiandole velenifere si raggiunge al 15° giorno di vita. Un'ape non è in grado di riformare il veleno perché dopo averlo prodotto le ghiandole velenifere degenerano rapidamente. Da tempo la medicina popolare riconosce al veleno d'api proprietà medicinali e curative, ma solo di recente la medicina ufficiale se ne è occupata, evidenziando le possibili applicazioni terapeutiche, soprattutto nelle affezioni reumatiche, osteoarticolari e neurologiche periferiche. Per chiudere l'argomento delle potature nella rubrica Amici Alberi, con Giorgio Valvasone, l'arboricoltore che ci conduce assieme a Roberto Barocchi e Aldo Cavani questa rubrica, siamo arrivati a come potare, con che strumenti e come curare, trattare le ferite prodotte dalle potature. Generalmente noi quando facciamo gli interventi di potatura, qualsiasi genere di pianta che ci troviamo nel giardino, dedichiamo poco tempo. Dovremmo praticamente stare molto più attenti quando potiamo una rosa, ad esempio, e dovremmo osservare che la gemma che noi lasciamo, delle 3-4 gemme sul rametto che noi lasciamo, deve praticamente essere rivolta verso l'esterno, perché se noi lasciamo la gemma interna tende a chiudere il cespuglio, invece no, invece noi dobbiamo dare la possibilità di espandersi, è vero, con queste gemme che guardano l'esterno. Poi un'altra cosa fondamentale da osservare è da non lasciare il moncherino, perché il moncherino tende a seccare, non ho dettagliato il ramo, ci lascia il moncherino sopra la gemma e questo impedisce poi la chiusura, è vero, la chiusura perché il legno, la porzione tagliata tende a seccare e impedisce la chiusura della ferita. Strategici gli strumenti. Sì, bisogna adoperare delle forbici e dei seghetti che siano, diciamo, abbastanza taglienti, insomma, bisogna prendere anche degli strumenti, magari costano qualche euro in più e così si ha l'opportunità di fare dei tagli netti. E soprattutto disinfettare. Disinfettare, si consiglia appunto di disinfettare costantemente per evitare di portare, di disseminare, è vero, le malattie da una pianta all'altra. Sui tagli qualcuno mette dei mastici, qualcuno mette del rame, cosa suggerisce lei? Sì, ci sono, sì, vanno benissimo queste sostanze, il rame, poi ci sono dei mastici che sono validi. Io consiglierei i microrganismi antiossidanti. Ovvero? I microrganismi antiossidanti hanno l'opportunità di frenare uno svariato numero di funghi che frenano anche la carie, è vero, che poi gradualmente fa marcire il ramo. Ecco. E dove si trovano? È un po' difficile trovarli, a dir la verità. Sì, sì. Nei negozi ancora non li vediamo. A Bolzano c'è un'organizzazione e questi addirittura mandano a casa, sì. Internet. Su internet, sì, sì. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 35,10 e 35,60 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 35,70 e 36 euro. Il frumento, tra 37,50 e 37,80. La soia, tra 68,40 e 68,90. Rispetto a un anno fa, il mais è aumentato di 14 euro e la soia di 10,40 centesimi il quintale. Buone contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi diversificati. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,10 e 1,20 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine tra 2,20 e 2,30, i finocchi tra 1,30 e 1,40, le melanzane tonde da 1,50 a 1,60, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,80 e 2,20, i pomodori in grappolo tra 3 e 3,20, la scarola riccia e la ricchio rosso tondo da 2,80 a 3 euro, quello di Treviso tra 2,70 a 2,80, gli aspargi bianchi da 7,50 a 12 euro, i kiwi da 2 a 4,20, le arance navel da 1,1 ai 30, le tarocco a 1,40 a 2,40 e le fragole da 4 a 5 euro al chilo. Nel settore della pesca, con le condizioni meteo favorevoli, per le festività pasquali i prezzi sono leggermente lievitati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 24 a 34 euro il chilo, IVA esclusa. Le sogliole da 8 a 28, le ombrine da 10 a 30, le canoce da 6 a 20, le orate da 10 a 20, le passere da 10 a 16. I latterini da 9 a 12, i gamberi da 15 a 20, le anguille da 20 a 24, le capesante da 13 a 16 e le seppie da 9 a 12. Scambi attivi anche nel settore dei prodotti caseari, con quotazioni in aumento. Il montaggio di 90 giorni viene pagato da 6,80 a 7,10 euro al chilo, IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 7,80 e 8,10. Lo stagionato 12-15 mesi tra 8,20 e 8,60. Miglioramento anche del prezzo del latte crudo di vacca Franco Stalla di origine del Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone Udine lo ha quotato tra 0,42 e 0,43 centesimi il litro più premi qualità e IVA. In aumento anche le quotazioni del prosciutto di San Daniele, che viene pagato con osso tra 10,40 e 15,40 euro il chilo, IVA esclusa. Quello di Sossato tra 13,50 e 19,20. Infine, nel settore degli avi cunicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi stabili. I polli a terra vengono pagati tra 1,83 e 1,85 euro il chilo, IVA esclusa. Le anatre tra 3,51 e 3,55. I tacchini maschi tra 2,28 e 2,30. Le faraone tra 3,85 e 3,95. E le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 19 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Questa settimana ha visto la primavera avanzare speditamente nella nostra regione, facendo registrare temperature massime superiori ai 24-25 gradi in pianura. In questo ponte pasquale il tempo è determinato dalla presenza di un promontorio anticiclonico sull'Europa occidentale e di una depressione tra la Russia e l'Ucraina, che fanno affluire verso l'Italia correnti nordorientali piuttosto fresche, secche nella giornata odierna, più umide nei prossimi giorni. L'esatta posizione che assumerà la depressione non è ancora ben definita dai modelli e questo determina una certa incertezza nella previsione. Per domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre dal pomeriggio sarà possibile una certa variabilità sui monti e sulla fascia orientale. Sulla costa al mattino soffierà borino o bora moderata, che dovrebbe cessare nel pomeriggio quando entrerà la brezza. La temperatura massima non supererà i 17-18 gradi. Martedì l'avvicinamento della depressione dall'Ungheria richiamerà aria più umida da nord, mentre mercoledì dovrebbe avvicinarsi una depressione atlantica che potrebbe portare un fronte sull'Italia. Il cielo si farà variabile o nuvoloso e sarà possibile qualche debole precipitazione o qualche rovescio, prima in montagna dove potrà nevicare oltre i 1300 metri circa, poi forse anche su pianura e costa. Sulla costa soffrirà brezza e le temperature rimarranno piuttosto fresche. Da giovedì l'Europa sarà interessata da una debole circolazione depressionaria che dovrebbe mantenere un'atmosfera piuttosto umida e potrebbero esserci altre piogge. L'evoluzione rimane tuttavia molto incerta e si consiglia di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Avril fret, poc pan e poc vino, ovvero con un aprile freddo si avrà poco pane e poco vino, andrà male la raccolta del frumento e la vendemmia in vigna. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail vidaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima augurandovi buona Pasqua. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.